La principessa sul pisello. Tanto tempo fa, in un maestoso regno, viveva una regina che otteneva sempre tutto. Era molto possessiva del suo unico figlio, il giovane principe. La regina diede sempre il meglio a suo figlio: i vestiti più belli, il cibo più buono, i migliori insegnanti per educarlo e tanto altro ancora. Il principe divenne forte finché giunse il momento di sposarsi. La regina lo chiamò a sé. Un principe deve sposare una principessa, ma ricorda, deve trovarla da solo. Tieni a mente le mie raccomandazioni prima di sceglierla. Non cercare solo un bel volto. Una principessa non è solo una figlia di un re e di una regina. Deve essere delicata, intelligente e molto graziosa, con un buon gusto, nel sapersi vestire e che abbia un portamento ricco di dignità. Soprattutto, la prima cosa che noterai in una principessa è che ella, per essere tale, deve avere una voce angelica. Il principe assecondò e la regina gli permise di iniziare il suo viaggio per trovare la sua sposa. Il principe, insieme ai suoi servitori, viaggiò per molti giorni per raggiungere il regno più vicino. Andò dal re e si presentò. Il re era molto felice. Il principe era bello ed educato. Il re lo presentò a sua figlia, che era ancora nubile. Il principe era contento di vedere la bellissima principessa nella sua stanza. Stava studiando una poesia ed era ben vestita. Buongiorno, principessa. Ciao! Il principe era sconvolto perché la voce della principessa era stridula. Va tutto bene? Posso portarti un po' d'acqua? No, no! Non ho sete! Oh, va bene! Continuate a leggere la vostra poesia. Io devo partire e si è fatto molto tardi. È stato bello per me conoscervi. Il principe fu molto deluso, ma continuò il suo viaggio. Raggiunse il regno limitrofo. Il principe, giunto al castello, si presentò davanti ai regnanti. Il re e la regina erano così contenti della bellezza del principe che lo invitarono immediatamente a incontrare la principessa. Il principe si recò in una sala. Vide una bellissima fanciulla seduta al tavolo da pranzo. Stava pranzando. Il principe la salutò. La principessa disinava ignorando il principe. Mangiava con molta avidità. Principessa, vedo che è molto occupata. Vi lascerò da sola con il vostro cibo preferito. Il principe se ne andò. Dopo aver viaggiato per molti giorni e molti luoghi, il principe non riuscì a trovare una ragazza adatta per sposarsi. Molto deluso, egli tornò nel suo regno. I suoi genitori lo accolsero. Egli raccontò loro tutta la storia del suo viaggio. Oh, che tristezza! Ma sono contenta che sei a casa e non hai scelto nessuna di quelle ragazze. Sono certa che la tua vita sarebbe stata misera dopo aver sposato una di quelle ragazze. Il principe assecondò la regina e tornò nella sua stanza. Ci fu una tempesta quella notte. Il principe guardava dalla finestra della sua stanza e vide qualcuno giungere al castello. Sentì bussare alla porta. Il servo aprì la porta. C'era una bella ragazza fuori dal castello. Era vestita con un mantello scuro e completamente bagnata a causa della pioggia. Il principe scese le scale e seguì la voce della ragazza. Il mio cocchiere si è perso nella pioggia. Ho seguito la luce del vostro castello. Sareste così gentile da provvederci riparo per tutta la notte? Certamente, sarei molto onorato. Mademoiselle, mi dia il cappotto. Il principe l'accolse nel castello. Mentre il principe prendeva il cappotto, pensò: questa è la ragazza più bella che io abbia mai visto. Chiese ai suoi servi di occuparsi dell'ospite e si recò dalla regina per informarla. La regina andò incontro alla misteriosa ragazza e a prima vista non fu entusiasta. Figlio, non è una principessa. Guarda il suo vestito vecchio e sporco. Lei non ha con sé dei servi. E perché mai una principessa viaggia di notte con questa pioggia? Ma madre, io non ho mai visto nessuna ragazza con un portamento come il suo. La regina capì che il principe iniziava ad infatuarsi. Elaborò un piano per sbarazzarsi dell'ospite, così da allontanare suo figlio da quella ragazza. Figlio, la metterò alla prova. Stasera lei dormirà nel nostro lussuoso letto reale. Il letto sarà composto da 10 morbidi materassi e metterò tra questi un piccolo pisello crudo. Se lei è una vera principessa, sarà abbastanza delicata da sentire il pisello. Il principe aveva fede in sua madre. La regina ordinò ai suoi servi di sistemare il pisello sotto uno dei materassi. Il principe accompagnò la ragazza nella camera. Una scala fu affiancata per farla salire sul letto. Non riuscì a dormire tutta la notte. Al mattino la ragazza si svegliò e chiamò a sé un servo. Sono molto agitata. Per favore non dica questo al principe, ma è un letto orribile. Sembrava che ci fosse un mattone dentro. Non ho potuto dormire tutta la notte. Il principe venne a conoscenza dell'accaduto e la raggiunse. Sei una vera principessa, ho indovinato? Per favore, sposami. Ti sposerò se non dovrò più dormire su questo fastidioso e orribile letto. Il principe e la principessa si sposarono e vissero felici e contenti. Ooh.